È l'estate 1922. Siamo nelle campagne bulgare, Bulgaria meridionale, nel distretto di Cirpan. Un uomo sui 40 anni, un guaritore, si aggira nella radura a cercare erbe medicinali. Ormai è quasi sera, anzi, quasi notte. Si avvicina a un casolare per cercare ospitalità. L'uomo che però apre la porta è visibilmente agitato. La moglie, dice l'uomo, è gravemente malata, allettata. È sofferente, immobile e soprattutto sonnolenta. Sonnolenta, letargica. Questa parola muove qualcosa alla mente del guaritore. Lui comunica la sua professione e ottiene ospitalità per la notte. Ha un patto però, naturalmente, provare a guarire la donna in qualsiasi modo possibile. Prescrive quindi una pianta che aveva già visto suo padre utilizzare sugli animali ammalati di una malattia molto simile, una malattia del sonno. La pianta si chiama Ludobile, erba pazza, in bulgaro. La donna prende l'intruglio e vicino al suo letto è lasciato del latte affinché possa berne in abbondanza. Il guaritore, il cui nome è Ivan Riv, ottiene così un posto per la notte, ma non riesce a dormire, anzi, passa la notte insonna, è agitatissimo. La donna infatti, dopo aver bevuto l'intruglio, è veramente, veramente messa molto peggio di quando aveva iniziato la cura. Tutti i parenti si riuniscono intorno al letto della donna e alla fine Riv, mentre nessuno custodisce la sua camera, decide di prendere la finestra lasciata aperta e darsi la macchia. La donna peggiora e i parenti sono sicuramente preoccupati. Il giorno dopo però cercano ovunque il guaritore, non si trova, nemmeno nei villaggi vicini, è veramente scomparso. Quello che però vogliono comunicargli è qualcosa di inaspettato. L'erba pazza è la bella donna. Io sono Alessio Fadda. Io sono Raffaele Bonsignori. E questa è In Sana Pianta, benvenuti. Oggi parliamo della bella donna, pianta nota ai più per le proprietà cosmetiche per cui era utilizzata in antichità. La bella donna, nome scientifico Atropa bella donna, è una pianta della famiglia delle solanacee. Le solanacee più comuni sono per noi piante come il pomodoro, la patata, la melanzana e il peroncino, e le distinguiamo in generale da un fiore molto particolare che ha 5 petali fusi tra loro. Tutti, osservando le piante di pomodoro, per esempio, che abbiamo sui nostri balconi, possiamo notare questa cosa. E per via di questa caratteristica possiamo distinguere qualsiasi pianta appartenente, qualsiasi specie vegetale appartenente alla famiglia delle solanacee presente in tutto il mondo. La bella donna è originaria dell'Africa nord-occidentale, dell'Europa meridionale e di quella parte del Medio Oriente che oggi possiamo ascrivere all'incirca alla Turchia e all'Iran. Il suo nome scientifico è Atropa bella donna e già questo ci dice molto, perché Atropa è dovuto ad Atropos, che era una delle tre parche, figure mitologiche dell'antica Grecia che stabilivano il destino degli umani, e Atropos era proprio colei che toglieva la vita alle persone. Bella donna invece fa riferimento probabilmente all'uso che ne veniva fatto in antichità, perché le donne la usavano per truccarsi, poiché per via delle sostanze contenute, che dopo vedremo, causava la dilatazione delle pupille e questo consentiva alle donne di apparire più attraenti. Oppure potrebbe fare riferimento a Buona Donna, che era una definita, la definiremo impropriamente strega, cioè un erborista che in epoca medievale curava persone con rimedi naturali raccogliendo piante spontanee. La bella donna in particolare cresce al di sotto dei 1400 metri sopra il livello del mare, ai margini dei boschi umidi, e viene raccolta principalmente per scopi medici. Veniva raccolta per scopi medici, come racconteremo. La malattia di cui andiamo a parlare, che è stata affrontata con questa pianta dal nostro curatore bulgaro, è l'encefalite letargica. Prima di scoprire qual è stato l'esito della cura sulla donna, vale la pena spendere qualche parola su questa malattia ancora oggi così misteriosa. Sulle persone affette da encefalite letargica, un morbo che si inizia a diffondere in Europa e poi nel mondo come vera e propria pandemia durante i primi anni della Prima Guerra Mondiale, il corpo diviene irrigidito e diviene veramente una prigione per chi è affetto dal morbo. Il volto inespressivo come una maschera. Lo sguardo assente vede però gli occhi, la bocca e la lingua ruotare in ogni direzione. Si passa così dall'ipocinesia all'ipercinesia. Infatti, a volte sono gli arti a dimenarsi, altre è l'intero corpo scosso da una violenta attacco epilettico a non trovare pace. Un sintomo che però caratterizza coloro che sono stati affetti da questo morbo è sicuramente il sonno. Un sonno che spesso si tramuta da sonnolenza in vero e proprio coma. L'encefalite letargica è il nome scelto da un studioso, un medico viennese di origine greca, Konstantin von Economo, che studia il morbo e nel 1916 ne dà una definizione. Mentre la grande guerra in furia, gli ammalati sono centinaia di migliaia e principalmente colpiti sono i giovani tra i 10 e i 35 anni. La mortalità si attesta tra il 30 e il 50%. I sopravvissuti, anche a distanza di anni, sono colpiti dal parkinsonismo post-encefalico, quindi dei sintomi che potevano essere condotti al Parkinson. Inoltre, le lesioni cerebrali mutano la personalità di chi ha subito questo morbo, e soprattutto i giovani ragazzini iniziano ad avere comportamenti impulsivi, distruttivi. Vere e proprie bande di criminali sopravvissuti alla malattia si diffondono per le città. E inoltre, molto diffuso è anche l'autolesionismo. Torniamo quindi al nostro racconto. La donna che aveva assunto la bella donna dalle mani del guaritore, dopo essere peggiorata, sconvolta dalla convulsione, alla fine sorprendentemente sta meglio, anzi riacquista anche uno stato di calma. Alla fine la notizia arriva a Rev, che decide così di curare la donna, ritorna quindi sui suoi passi e ritorna al casolare e inizia a somministrare dosi di bella donna sempre più calibrate, sempre più precise. Suo scopo è quindi trovare un modo per curare il morbo con, appunto, questa piatta. Una malattia del sistema nervoso caratterizzata da una sonnolenza in una determinata fase può essere curata dalla bella donna. Riv è però catturato e passa diversi giorni in prigione. La sua colpa non è quella di aver aiutato dei pazienti, quanto piuttosto quella di aver esercitato la professione medica senza alcun titolo certificato. Era infatti un guaritore, come ce ne sono tanti, che aiutava le persone con medicinali creati appunto per via naturale. Quando però è rilasciato, decide di non darsi per vinto e continua nel suo intento. Mescola, tra gli altri, anche il latte e non solo, il vino bianco, che viene usato per estrarre alcune sostanze dalle radici della bella donna. E ancora prova con la noce moscata, che ha una qualità sedativa. Non solo, anche il calamo aromatico, che permette di combattere la secchezza del tratto orale, e ancora il carbone animale o la menta. Usando quindi tutti questi ingredienti e molti altri, riesce a mettere a punto una cura, un decotto, che in poco tempo è diventato celebre in tutta la Bulgaria e anche fuori dai confini. Il risultato infatti è apprezzato dall'Università di Sofia, capitale del regno, e molti pazienti riescono a guarire dai sintomi che possono essere ricondotti al Parkinson nel giro di poche settimane. Alcuni hanno bisogno di un po' più di tempo e di modifiche nella dose. Tra gli apprezzatori della cura c'è senz'altro il re di Bulgaria, Boris III, che tra le altre qualità aveva quella di essere uno scienziato e quindi la fama della cura bulgara continua ad aumentare. Quello che però nessuno si aspettava era il fatto che un colonnello italiano in visita in Bulgaria venisse colpito dall'encefalite e sviluppasse la sindrome che può essere collegata al Parkinson. Sottoposto quindi alla cura, il colonnello italiano riesce nel giro di poco tempo a rimettersi in salute e la notizia in questo modo arriva a Roma. Questo spiega perché la bella donna sia oggi coltivata come pianta medicinale e in virtù proprio delle sostanze che contiene. Le sostanze in particolare, che sono principi attivi poi sugli animali, sono alcaloidi. Gli alcaloidi sono sostanze psicoattive. Alcaloidi sono sempre sostanze a noi molto note come la teina, la caffeina, che in realtà sono la stessa molecola ma ricavata dalla pianta di tè e dalla pianta di caffè, la nicotina, il THC e altre sostanze che sono per noi molto comuni, per esempio anche la teobromina nel cacao, che sfugge ai molti, però è sempre un alcaloide. Hanno proprio un'azione sul sistema nervoso parasimpatico, quindi di fatto agiscono sui muscoli involontari. Questo è dovuto proprio è il motivo per cui la bella donna è velenosa per gli esseri umani, ma proprio in virtù di queste sostanze può essere, con i dovuti dosaggi, essere impiegata come pianta medicinale. I principi attivi presenti nella belladonna sono per la maggior parte yoshamina, ma anche atropina, scopolamina e belladonnina, che devono il loro nome proprio in virtù della presenza in questa pianta. La tossicità in particolare è dovuta alla dose, quindi nel momento in cui vengono ingerite diverse bacche di belladonna, ma la parte più tossica della pianta sono le radici, sono effettivamente velenose, ma nel momento in cui queste sostanze vengono utilizzate con i dosaggi adeguati, svolgono la funzione voluta. In particolare, diciamo, tutta la pianta è velenosa, appunto le radici in particolar modo, ma la parte che è più problematica per gli esseri umani sono le bacche, perché le bacche sono nerastre, possono assomigliare a persone inesperte a mirtilli e hanno inoltre, a differenza di molte bacche velenose, un sapore piacevole. Quindi sono anche noti casi di persone che hanno effettivamente preparato torte scambiando le bacche di belladonna per mirtilli e sono risultate intossicate o avvelenate fino addirittura a morirne. Prima di andare avanti a scoprire come la cura bulgara sia diventata di fatto una cura bulgara italiana e poi una cura italianissima, vale la pena spendere due parole sulla donna che si interessa a far arrivare questo trattamento in Italia. Parliamo infatti della regina Jelena di Montenegro, italianizzata in Elena. Il matrimonio tra la principessa montenegrina e Vittorio Emanuele III di Savoia è stato un ben studiato progetto eugenetico e dinastico, o anche, come volle ripetere più volte la regina madre Margherita, un vero matrimonio d'amore. A proporre la principessa come candidata ideale per il rampollo di Casa Savoia è Francesco Crispi, presidente del Consiglio che ha origini antiche di antica famiglia di etnia albanese, stanziatasi in Sud Italia diversi secoli prima. Forse questo è uno dei motivi per cui Crispi si interessa con una certa simpatia a ciò che accade sulla sponda balcanica dell'Adriatico. Propone quindi una candidata ai regnanti che possa far diventare alti i Savoia. La principessa, ormai regina dal 1900 dopo l'assassinio di Umberto I di Savoia, ha una grande passione, la medicina. Se fosse stata lasciata libera di perseguire la propria indole, probabilmente sarebbe diventata una dottoressa oppure un'ostetrica. Sicuramente però troverà modo di dedicarsi a questa attività anche dopo aver indossato la corona. Tra i meriti sicuramente che ebbe fu quella di aver, partecipato a ben 52 parti durante la villeggiatura, tra le altre nella località di San Rossore. Inoltre, durante il terremoto di Messina nel 1908, la regina, che conosceva bene il russo avendolo studiato in prestigiosi collegi, si interessa di comunicare con una grande nave militare russa in transito in quel territorio e fa in modo che, attraverso il canale di Sicilia, molti feriti vengano poi trasportati in mare fino a Napoli. Inoltre, durante la Prima Guerra Mondiale, il Quirinale diventa un vero e proprio ospedale da campo. Benito Mussolini dirà che con la regina si può parlare soltanto di medicina e di ammalati. Dunque, immaginiamoci allora la scena. Siamo nel settembre del 1927 e il re di Bulgaria, Boris III, è a San Rossore, ospite di Casa Savoia. Il re, come abbiamo detto, era uno scienziato con competenze faunistiche nonché botaniche e si trova certamente a suo agio a parlare con la regina di argomenti così affini. Tra le varie curiosità che comunica è che l'encefalite letargica avrebbe trovato una cura, almeno per i suoi sintomi, nelle sperdute campagne bulgare. Un guaritore, infatti, Ivan Rave, si sarebbe interessato e avrebbe trovato una cura attraverso la bella donna. La regina resta senz'altro affascinata, ma sa bene che uno stregone balcanico sconosciuto avrebbe avuto poco credito presso la comunità medica italiana. Trova così un modo per far breccia nella austera comunità dei dottori italiani. Infatti contatta un medico nostrano di fama certa, un certo Giuseppe Panegrossi, docente di neurologia e patologia presso l'Università di Roma. Panegrossi si era occupato dell'encefalite letargica fin da quando Von Economo ne aveva identificata nel 1916 e aveva constatato come non ci fosse in realtà alcuna cura. L'unica sostanza che permetteva qualche miglioramento era l'atropina, ricavata appunto dalla belladonna, ma gli effetti collaterali, tra cui la morte, facevano sì che i pazienti preferissero continuare a sopportare le manifestazioni tardive della malattia, come la rigidità, il tremore e un'eccessiva salivazione. Yelena quindi ottiene, qualche anno dopo, dal genero ormai, in quanto Boris III aveva sposato la quarta figlia di Yelena, Giovanna, e ottiene quindi dal sovrano di Bulgaria la possibilità di far inviare da Ivan diversi chilogrammi della radice in Italia, iniziando così i trattamenti. Dopo diverse prove, nel 1934, apre il sesto padiglione del Policlinico Umberto I, dove si inizia a trattare in maniera sempre più sicura tutti gli ammalati del morbo di Parkinson sviluppato dopo l'encefalite. Inoltre nasce anche l'Istituto della Regina Elena per lo studio e la cura dell'encefalite. In Bulgaria nel frattempo la bella donna va letteralmente a Roma. Inoltre Rajev viene invitato a Roma. Qui riceve un'onorificenza, una medaglia, come cavaliere della corona, del denaro, un ritratto della regina e soprattutto, al suo rientro, finalmente la possibilità e l'autorizzazione di utilizzare come appunto medicinale l'erba senza essere perseguito in alcun modo, lui che pure non era medico. Un anno dopo, Panegrossi, il dottore italiano, comunica i risultati delle sue ricerche al Quirinale. Dei 258 casi studi, tutti avevano ricevuto dei benefici. In particolare i meno gravi erano virtualmente guariti, mentre i più gravi potevano tornare almeno a camminare, a fare le scale e a mangiare con le proprie mani. Rientravano nella cura non soltanto l'assunzione delle radici di belladonna e di altri elementi, ma anche una serie di attività, come una dieta tossica, priva di vino, caffè e fumo, e ancora passeggiate all'aria aperta, movimento, massaggi, ginnastica attiva e passiva, apparecchi ortopedici per la postura, nonché fisioterapia e psicoterapia. Dopo 2 mesi la cura continuava a casa, a domicilio. Naturalmente non era qualcosa che tutti avevano la possibilità di fare. Per questo motivo, proprio per volontà della regina Elena, dal 1936 la terapia diventa obbligatoria e per legge anche i più poveri dovevano essere ospedalizzati a spese dei comuni di residenza. A Milano, nel frattempo, si fa sì che l'efficacia della belladonna venga notata non solo nelle piante provenienti dalla Bulgaria, ma anche nella specie nostrana. Non c'era quindi alcun motivo per continuare l'importazione. Inoltre si inizia a produrre presso l'Istituto Seroterapico anche una compressa di belladonna. Durante gli anni dell'autarchia inizia così la produzione di una droga italianissima. La pianta ormai è diventata l'erba della regina. Dopo aver infierito sul crepuscolo della Grande Guerra, la malattia inizia a scomparire così come era apparsa, nel nulla. Si affievolisce dunque durante tutti gli anni venti. Nel 1935 però, dall'altra parte del mondo, in Giappone, c'è una nuova esplosione di questo male. Ma sicuramente lo svolta più interessante della cura è ciò che accade in Germania. Tra il 39 e il 40, il dittatore nazista Adolf Hitler emana l'Action T4, col quale venivano perseguitati, catturati e quindi eliminati tutti coloro che presentassero gravi problemi fisici e psichici, in quanto ritenuti non recuperabili dal punto di vista medico. Sotto questa atroce legge perderanno la vita circa 80.000 persone. I malati di encefalite erano tra coloro che vennero designati per questa terribile sorte, ma per interessamento della regina Elena ciò non avvenne. Infatti fece sì che la cura bulgara italiana, la cura della regina, venisse portata anche in Germania e a Kessel, dove Mafalda, una delle figlie di Yelena, aveva preso residenza, venne costruito un centro per curare tutti gli ammalati di questo morbo, che in questo modo, per interessamento della regina di Casa Savoia, poterono evitare l'atroce destino che era stato altresì per loro pensato. La cura si diffonde così in Europa e poi negli Stati Uniti, dove verrà poi prodotta in maniera sintetica a partire dal 1939. E ci avviciniamo così all'epilogo della nostra storia. Sì, il fatto curioso riguardo alla belladonna è che a livello culturale la riconosciamo sempre come questa pianta, appunto, come abbiamo detto all'inizio, famosa perché le donne la utilizzavano per truccarsi dilatando le pupille e apparendo quindi più belle, ma questo chiaramente proprio per le sostanze contenute causava alla fine problemi alla vista e diversi sintomi chiaramente non desiderati. mentre appunto con tutte queste cure, queste e con queste cure appunto che abbiamo raccontato, di fatto esplose una vera e propria caccia alla bella donna, tant'è che a un certo punto si dice che non si trovavano più piante di bella donna in natura. All'inizio venivano lasciate le bacche, quando venivano appunto raccolte le radici, che sono la parte più interessante per la concentrazione dei principi attivi, e a un certo punto addirittura anche le bacche venivano raccolte, quindi la bella donna stava sparendo. Ed è quasi assurdo pensare come questa pianta, che a noi viene ricordata come semplicemente letale, era assolutamente ricercata da chiunque. E questo ci può spiegare come appunto una pianta che viene vista come nociva in realtà non lo era. A metà degli anni 30, Ivan Reyev è ormai un personaggio famoso, soprattutto in Bulgaria. La sua abitazione nel villaggio di Sipka era diventata ormai una clinica per malati post-encefalici. Inoltre, il guaritore era apprezzato e conosciuto da tutti per il modo con cui collaborava con i suoi assistenti, ma soprattutto con il quale aveva rapporti con gli ammalati. Si dimostrava infatti di un'eccezionale umanità, compassione, familiarità e anche socievolezza, nonché uno straordinario fascino personale. Si spegnerà a 62 anni, nel 1938, e la sua abitazione, nelle quale era stata fondata appunto un'azienda magazzino, infatti venivano anche conservati i campioni di belladonna, non durerà a lungo. Infatti non potrà reggere la concorrenza dei decotti prodotti grazie alla produzione nazionale di belladonna e soprattutto la produzione sintetica di cui abbiamo parlato prima. Il suo nome e la sua cura perderanno lustro, verranno dimenticati subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi la sua tomba ricorda però la pianta che tanto gli ha consegnato fama e successo. Infatti, in Bulgaria, nel cimitero di Sipka, è possibile apprezzare i frutti e la radice di belladonna, appunto come bassorilievi, sul luogo del suo eterno riposo. E così siamo arrivati alla fine di questo primo episodio di Insana Pianta. Vi aspettiamo il prossimo sabato con un altro nostro amico verde, e senza dubbio saremo sicuri che potrete trovare alcuni aneddoti senza dubbio interessanti. Grazie a tutti per averci seguito, io sono Alessio Fadda, io sono Raffaele Bonsignori e questo è Insana Pianta. Buona serata!